piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Video che sta girando, un video che sembra quasi surreale, sembra uno squarcio di Silent Hill, le tante città attraversate comunque dal male, dalla pestilenza. In realtà sono abitanti di Wuhan che si affacciano di notte alle finestre, ai balconi e cantano il loro inno nazionale, tutti in quarantena, tutti chiusi dentro casa. Con il drone hanno ripreso questa città desolata, deserta, spaventata, e gli abitanti alle finestre cantano l'inno nazionale. Questo nel luogo dove c'è la scaturigine primaria di un'angoscia che sta attraversando il mondo. Questa mattina nella metropolitana B di Roma, il professor Fabrizio Intonti, mentre veniva a Melog, ha visto una signora che si era messa un pezzo di carta sulla bocca e viaggiava in metropolitana con questo foglio di carta sulla bocca, come se fosse il tentativo disperato di una persona che si trova a attraversare un mondo contaminato di non prendersi il morbo che angoscia. Ora, ci sono due livelli di lettura rispetto a quello che sta accadendo. Da una parte quello che abbiamo fatto noi da lunedì, che ci sembrava doveroso, abbiamo parlato con uno scienziato, ci siamo fatti dire quello che è esattamente il punto rispetto all'evidenza, alla possibilità di verificare le fonti su quello che sta accadendo dalla Cina al resto del mondo. D'altra parte si può fare quello che abbiamo sempre fatto lunedì, che oggi fanno tanti, fa mirabilmente Mattia Feltri nel suo Buongiorno, l'elenco delle paure esagerate, l'elenco dei pregiudizi, tutte cose che abbiamo lambito lunedì e che mi sembra che sia stata profetica quell'incontro. Le mamme che cominciano a discriminare i bambini cinesi a scuola, la gente comincia a guardare con sospetto i cinesi per le strade. Guardate che la vulgata era di tutti le crudeltà diffuse antibuniste, era dire: prendete esempio dagli immigrati cinesi, sono tanti, lavorano, non danno fastidio a nessuno e non si vedono. Ecco, oggi improvvisamente l'attenzione si è spostata dagli africani che arrivano coi barconi ai silenziosi cinesi che lavorano e non disturbano, sono visti con sospetto, con timore, come se in ogni cinese si celasse la possibilità della contaminazione. E poi cominciano le misure, sia quelle empiriche, casalinghe, riprese dalle bisnonne che raccontavano della spagnola, visto che hanno dato i dati epidemiologici del 2-3%, quindi sono gli stessi della spagnola, sono morti 20 milioni di persone, cosa accadrà questa volta? E quindi ci si ricorda della nonna, bisnonna che parlava della spagnola e si fa quello che si faceva allora, incette di cibo, derrate alimentari, provvigioni. E poi cosa si fa? La gente chiede, comincia a dire: ma una casa in montagna, andiamo tutti in montagna, c'è l'aria buona e si sta lontani dal mondo. E c'è chi parla veramente, prendere i figli e andare nella seconda casa e aspettare segregati che passi. E poi ci sono tutte il riverberare di quegli atteggiamenti che già Manzoni ha visto fatalmente raccontati benissimo, chi determina le ragioni strane, come le macchie lunari erano appunto per Don Ferrante, mi pare, se ricordo bene. Ecco, diceva, la peste hanno le macchie lunari, infatti è morto di peste, e oggi si dice che appunto il coronavirus viene da un laboratorio segreto in cui si sperimentava un'arma batteriologica, ma non lo escludo, può essere, ma al momento non abbiamo certezza di questo. E poi il quotidiano appunto: sono esaurite le mascherine, tutti vanno in ferramenta a comprarsi le mascherine, quelle da verniciatore. Le signore, non sapendo cosa è meglio da fare, si appiccicano la free press sulla bocca quando passano in metropolitana, perché pensano sia il luogo della maggior contaminazione. Quindi, come facciamo noi abbastanza spesso, una delle nostre modalità, oggi vogliamo proporvi una scala, l'abbiamo chiamata Scala Manzoni, non occorre nemmeno che vi spieghi perché. La scala Manzoni servirà a determinare attraverso 5 livelli qual è il vostro livello di paura del contagio. Non entriamo in merito se la paura sia razionale, motivata, se abbia solide basi. Non siamo esperti in questo. Gli esperti stanno parlando anche troppo in questo momento. Cioè anche troppo, mai troppo. Diciamo, sono sufficientemente presenti. Oggi vogliamo ponderare, toccare quello che è il sentimento di pancia degli italiani di fronte a questa notizia che ormai nessuno può ignorare. 800 24 0024, scala Manzoni. La scala Manzoni per misurare la vostra paura da contagio. Come state vivendo il clima di diffuso timore per il contagio da coronavirus? Chiamate ora in diretta all'800 24 0024 e diteci a quale livello di preoccupazione siete arrivati, in base ai parametri della scala Manzoni. Livello 1 o del fatalismo scettico? Del coronavirus ve ne fregate, siete fatalisti a oltranza, i giornali devono sparare titoloni solo per vendere copie, come per la SARS, da noi non succederà nulla. Livello 2 o del timore razionale? Avete cominciato a prendere qualche precauzione igienica, vi tenete informati, aspettate a prenotare voli per l'Asia per l'estate. Livello 3 o della prevenzione agorafobica? Avete cominciato a evitare i luoghi più affollati come metro e bus ed evitate i quartieri cinesi. Livello 4 o dell'allarme mascherato? Gli infetti potrebbero essere già tra noi. Siete in allarme, avete ridotto le uscite al minimo indispensabile e se uscite, indossate la mascherina. Livello 5 o della paranoia pandemica? È chiaro che sta per esplodere la terza guerra mondiale batteriologica. State facendo scorte alimentari per chiudervi in casa, pronti a far fuori chiunque bussi alla vostra porta. I nostri esperti hanno stilato una scala che parte dalla accentuazione più labile rispetto a questo problema, quello del fatalismo scettico. Sono le solite cavolate, i giornalisti esagerano, ma che volete che sia, non succederà niente, fino alla paranoia pandemica. Sono quelli veramente spaventati, sono quelli che veramente pensano di comprarsi i pacchi di pasta e le casse di acqua minerale e chiudersi nella casetta in montagna e aspettare che passi, senza porsi il problema di quanto tempo potrebbe passare. Che voi a che livello siete? È importante che mi rispondiate con sincerità e soprattutto chiamate all'800 24 0024, perché per il valore statistico che può avere, che non ha nessun fondamento scientifico, comunque questo osservatorio è un osservatorio concreto di quello che è il sentire degli italiani medi. Quelli che ci ascoltano in questo momento, l'abbiamo provato più volte, sono un campione rappresentativo comunque del sentimento rispetto a un problema. Ecco, voi a che livello vi ponete di questi 5 di questa scala? Pensate che sia tutta una montatura? Avete cominciato a avere qualche razionale timore? Leggete i giornali con più attenzione, cercate le notizie con maggiore attenzione. Cominciate, come la signora vista oggi in metropolitana da Fabrizio Intonti, a prendere qualche provvedimento. Non andiamo più in metropolitana, molti lo dicono, non prendono più la metropolitana, non mandiamo più i figli a scuola con l'autobus, accompagniamoli noi. Abbiamo tanti ragazzi cinesi in classe, cominciamo a avere paura. Allarme mascherato, già entriamo nella zona dell'irrazionale, sono i comportamenti che in qualche maniera cambiano fortemente il vostro quotidiano. Evitate di uscire, avete paura di uscire, cercate la mascherina, pensate che una mascherina possa salvarvi, oppure cominciate a cercare gli antidoti, e vi mettete i guanti, girate con la mucchina e la spalmate ovunque. Cose che sembrano stupide e banali, ma che abbiamo registrato in questi giorni come comportamenti fra le persone. Livello 5 sono quelli che hanno veramente paura, come mi scrive un'ascoltatrice nel gruppo Melog ha parlato su Telegram, dice: mi mette l'ansia che non ce l'ho. Aveva già sentito prima Nicoletta Carbone che parlava appunto giustamente sulla notizia del coronavirus e già si era messa in ansia. Magari se l'ascolta adesso che parla della cistite gli passa l'ansia. Giampaolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, a che livello si pone lei della nostra scala Manzoni? Ma guardi, io potrei essere nella prima scala o nell'ultima, spiego perché. Se questo virus nasce in un laboratorio di guerra batteriologica, chi l'ha inventato, ovviamente l'ha inventato affinché non fosse neutralizzato, perlomeno non fosse neutralizzato molto facilmente. sono combinazioni per le quali si deve gettare il panico nel nemico, quindi in questo caso sarei numero 5, quindi veramente una paura folle. Quindi lei dice se fosse vera la notizia più catastrofista, che è qualcosa creato in laboratorio, quindi ci saranno difficoltà, essendo un'arma, a disinnescarla. Sì, però se lei guarda tutta la fantascienza zombesca legata appunto alle epidemie zombie che nascono da un virus costruito in laboratorio, lì c'è sempre l'antidoto. Di solito l'antidoto si prende dal sangue di una persona che è per geneticamente immune a questo virus, c'è sempre un motivo di... però ce l'hanno l'antidoto. Dottor Nicoletti, volevo solo dirle che c'è il lago Daral in Russia, mi pare si chiami così, dove c'è un laboratorio in disuso oramai da 30 anni, dove i sovietici hanno provato un sacco di batteri creati in laboratorio. Ma queste cose dove si leggono? Perché sarà una cosa segreta. Dove le ha viste lei, Gianpaolo? Guardi, no, già 2 anni fa si parlava di questo lago che si sta prosciugando e si ha addirittura paura che i topi raggiungano questo isolotto prosciugandosi il lago, dove ci sono questi laboratori con dentro delle cose inimmaginabili da un punto di vista. Quindi di succederebbe un contagio, come nel film di Nosferatu, i topi portano la peste, in questo caso porterebbero, perché i topi mica passano sull'acqua, come fanno se un'isola i topi andare all'isola? Perché il lago si sta prosciugando. Ah, quindi passa, c'è un camminamento dove passeranno i topi. Esatto, sì, però è un'altra cosa questa, è un virus russo. Teniamoci al tema del coronavirus. Il tema se fosse un'influenza normale, ripeto, io sarei il numero uno, perché basterebbe... È vero che la spagnola aveva il 4% di deceduti, ma non c'erano ancora gli antibiotici, quindi oggi abbiamo gli antibiotici, abbiamo la penicillina, per cui direi che... Lei sta prendendo qualche precauzione per tenermi alla scala, visto che è a livello 5, come corrisponde questo? Nessuna, vado in palestra tranquillamente, non assolutamente no. Allora, lei è livello 5 nella percezione razionale, lei sa che comunque potrebbe esserci questo pericolo, ma nel comportamento è a livello 1, non cambia nulla. Interessante. Raffaella, buongiorno. Buongiorno. A che livello è della nostra scala Manzoni? Mi identifico nel livello 2. Timore razionale. Ecco, però nel livello 2 hanno scritto gli esperti, avete cominciato a prendere qualche precauzione igienica, vi tenete informati, aspettate a prenotare per l'ansia dell'estate. Lei ha già cominciato a avere qualche perplessità sul luogo che vuol prenotare per passare le vacanze, ad esempio? No, assolutamente. Anche perché vado sempre nello stesso posto, per cui... Dove va ad esempio? Vediamo. In Sardegna. La Sardegna è un'isola, potrebbe stare più tranquilla da questo punto di vista, anzi forse è proprio il posto ideale se corrispondesse al timore razionale il suo atteggiamento, no? Certo. L'ha fatto questo ragionamento? Direi che non ho percepito nessuna paura. Va bene. Sono più che tranquilla. Allora lei si osserva soltanto e sta tranquilla. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno. A che livello è della scala Manzoni? Come dicevo prima, a livello 4. Livello 4, allarme mascherato. Sì, perché dunque allarme mascherato nel senso che sto girando qualche farmacia per cercare mascherine e mi dicono che non ve ne sono più, che sono esaurite. Ma se va in ferramenta, quelle da verniciatore forse ce le hanno ancora. Non so se sono le stesse. Quella l'ho acquistata. Un'amica mia mi ha mandato una foto che si è comprata una maschera antigas con i filtri, penso da alto forno, non so, e gira con quella. E sta in Sardegna quindi evidentemente non è che l'isola la salva, capito? No, cercavo quelle mascherine da chirurgiche, da dentista. E non ce ne stanno più? Non ce ne stanno in farmacia, no. Adesso mia figlia le ha ordinate in internet. E sembra che ci siano, che possono arrivare. Quindi la sua intanto lei, il suo livello 4 è determinato dal fatto che sua figlia sta cercando su Amazon le mascherine salvavita perché in farmacia le hanno esaurite. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog. Il coronavirus è un virus, queste mascherine sono per uso chirurgico, cioè parano il droplet, le goccioline salive che partono quando parliamo, starnutiamo o tossiamo, e le vedete spesso utilizzate dalle persone dell'est asiatico, dell'est Asia, Giappone, Cina, quella zona lì. Queste mascherine non fermano il virus né vi proteggono. parlano solamente le goccioline, che sono cariche di batteri e di virus, quindi giusto che vengano utilizzate, ma di fatto non offrono nessuna protezione. La scala Manzoni per misurare la vostra paura da contagio. Come state vivendo il clima di diffuso timore per il contagio da coronavirus? Chiamate ora in diretta all'800240024 e diteci a quale livello di preoccupazione siete arrivati, in base ai parametri della scala Manzoni. Livello 1 o del fatalismo scettico? Del coronavirus ve ne fregate, siete fatalisti a oltranza, i giornali devono sparare titoloni solo per vendere copie, come per la SARS da noi non succederà nulla. Livello 2 o del timore razionale? Avete cominciato a prendere qualche precauzione igienica, vi tenete informati, aspettate a prenotare voli per l'Asia per l'estate. Livello 3 o della prevenzione agorafobica? Avete cominciato a evitare i luoghi più affollati come metro e bus ed evitate i quartieri cinesi. Livello 4 o dell'allarme mascherato? Gli infetti potrebbero essere già tra noi. Siete in allarme, avete ridotto le uscite al minimo indispensabile e se uscite, indossate la mascherina. Livello 5 o della paranoia pandemica? È chiaro che sta per esplodere la terza guerra mondiale batteriologica. State facendo scorte alimentari per chiudervi in casa, pronti a far fuori chiunque bussi alla vostra porta. 800240024, avete sentito dal canale YouTube di Luca Zelinotti, cade anche l'idea che la mascherina possa salvarvi. Tutti comprano le mascherine, mi stanno mandando sul canale Melog ha parlato su Telegram tutte le immagini, chi si compra le ammuchine, chi si compra i gel, chi si compra le mascherine, chi dice non toccatevi gli occhi, latevi sempre le mani, insomma le buone regole della nonna. Qualcuno tende a dire, ma che volte che si ha, è solo il 3% di mortalità, è come la spagnola. Sì, ma non vi dimenticate che la spagnola fra il 18 e il 20 anno, 1918-120, ha abbassato di 12 anni l'aspettativa media di vita nel mondo, ha toccato veramente tutto il mondo, si parla di 50 milioni di morti, tanto per dire, dai 50 ai 100 milioni di morti, non è che sia proprio una passeggiata. Quindi noi però questa mattina vogliamo semplicemente sapere i comportamenti. Da una prima analisi della nostra scala Manzoni abbiamo visto che mediamente c'è un senso di allarme e una maggiore attenzione ai media rispetto, finalizzata, mirata su questo problema. Cioè oggi ci si preoccupa meno improvvisamente degli sbarchi, ad esempio, sembra il problema principale, ci si preoccupa meno di tenere la pistola sul comodino, ci si preoccupa un pochino più magari di capire se c'è l'antidoto, se bisogna camminare in mezzo alla folla, e soprattutto si guarda nei giornali per capire cosa viene di nuovo dalla Cina, ma anche dal resto del mondo. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. A che livello è lei di questa scala? 5 assoluto. Quindi ma c'è un, paranoia, c'è un paranoia totale. Sì, per il semplice motivo perché ho notato che il governo cinese ci dà praticamente le notizie con il contagocce. Beh, questo l'ha sempre fatto su qualunque tema, diciamo la verità. E quindi la preoccupazione è quella, perché quanto c'è di veritiero sui morti che attualmente ci sono, possono essere di più. Questo nulla, non abbiamo certezza. La Cina non è un paese trasparente, questo è chiaro. Infatti è per quello che c'è molta logico. Paura. Solo esclusivamente per quello. E quindi uno cerca di evitare, se magari uno prima ogni tanto andava nei ristoranti cinesi, ok, assolutamente adesso non ecco, c'è. Ecco, mi elenchi allora. La paura che è razionale, quindi non ha basi razionali, e quei comportamenti portano? Non si va ai ristoranti cinesi, questa è la prima. Assolutamente. Nemmeno giapponesi, no, coreani. No, assolutamente, neanche nei negozi cinesi, assolutamente. Ma proprio per quello, proprio perché c'è una mancanza di informazione, e per quello, perché se dicessero il virus è solamente limitato in... Vabbè, questo non lo diranno mai, non lo diranno mai. Andiamo avanti. Qual altro comportamento? Evitare tutto ciò che è cinese. Di sicuro nei prossimi giorni, di sicuro mascherine. Io lavoro in un'azienda chimica, quelle lì mi sono praticamente facilissime da reperire. Lei ha preso quelle che c'ha sul posto di lavoro, che usano, diciamo, sì, i suoi... Sì, come sì. Sono fatte? Sono quelle bianche tranquille o sono quelle anche con sono i filtri? Sono quelle lì da verniciatore tranquillissime, sono quelle lì antipolvere, sono quelle lì, o se no ci sono quelle lì proprio con il filtro polivalente. Ma cosa fa? Se ne prende un po', le porta a casa per i bambini, per la moglie, per i parenti? Sì, naturale. Quante ne ha portate? Noi siamo in 5, quindi 5. E non ce n'è una di riserva, almeno una decina? Ma sì, io se volete ve le posso procurare quante ne volete. No, vabbè, vedo che adesso stanno tutti cercando. girando la gente con le maschere. Grazie, sentiamo. Grazie, Guido, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono di livello 1. Fatalismo scettico. Sì, esattamente. Secondo lei, allora, come le altre volte. Quello che ha detto il suo collega ascoltatore lo considera esagerato in questo momento? Sì, assolutamente. Io faccio la mia vita normale, tranquillissima. Sì, è vero, sento le notizie, ma non divento matto. Non cambia nulla della sua vita, diciamo. Non sto cambiando nulla, tant'è che sto anche prenotando un viaggio in Oman per i primi di aprile, senza tanti problemi. Vabbè, nell'altra parte del mondo però, scusi, che c'entra, non è in Cina. Sì, ma per dire, siccome non si vuole che si viaggia perché negli aeroporti c'è più promiscuità, un sacco di cose. Lei dice faccio il mio viaggio in Oman, non mi importa. Faccio i miei viaggi. Vado in giro. Abbiamo toccato, diciamo, i due estremi della scala. Esatto, proprio i due estremi. Due estremi della scala. Beh, giustamente, abbiamo sentito due atteggiamenti. Sentiamo Andrea. Andrea, si ribilancia a questo momento. Buongiorno a tutti. Che livello è lei? Io sono nella giusta metà, 2.5. Credevo di essere sul 3, ma credo che sia meglio un 2.5. Prevenzione agorafobica. Avete cominciato a evitare i luoghi più affollati come metro e bus. Evitate i quartieri cinesi. Io ho avuto la fortuna di avere per amico una persona che è deceduta a 103 anni e che ha passato la milanese, non so se si chiamava la spagnola. La spagnola. La milanese è quella di Manzoni, è un pochino prima, un po' difficile, capito? Beh, adesso io non so. Si parla di 500 anni fa, un po' troppo. No. Beh, comunque questa spagnola, questo mio amico l'ha vissuta e mi raccontava che purtroppo vedeva le persone ammalate che poi decedevano. E lui, insieme al suo amico ingegnere che era, dicevano, ma cosa dobbiamo fare per difenderci? A quel tempo loro prendevano delle belle cipolle che i cinesi conoscono bene, grosse, le intingevano nel sale e le mangiavano come mele, come si mangia una mela. Quindi secondo lei comincerà a prendersi un po' di cipolle di Tropea, le intinge nel sale? No, non di Tropea, assolutamente, no. Cipolle quelle più quelle bianche, bianche. Quelle che non ce la fai a mangiarle. E poi tenersi in bocca uno spicchio d'aglio per una mezz'ora, presente quello che si diceva che allontana i vampiri, probabilmente. Sì, però scusi, con questo sistema l'umanità non si riproduce più, però si stermina. Lo so, io andavo in Indonesia e mi chiamavano Bawang Bamputi, vuol dire puzzone d'aglio, e grazie a Dio non mi veniva vicino nessuna donna, così non ho tradito mia moglie, sono stato... No, sì, ma anche la moglie, scusa, la moglie la sottopone a una tortura, se lei c'ha la fiatella di aglio... Sì. È terribile. Probabilmente mi può aver tradito lei, perché tutti mi stavano lontano. No, è vero, adesso al di là potete limitarvi a rapporti, diciamo, more pecorum al massimo, che non c'è contatto frontale. Lei è molto simpatico. Ma se no come fai, il poveraccio? Va bene, ma adesso lasciando stare queste piccolezze qua dell'alito che diventa pesante, io le racconto una cosa che mi è accaduta in Indonesia. Bevevo un Heineken e ero attento a bere questa birra che era di importazione col bollino. Un giorno cambio supermercato, mi compro questa birra dell'Heineken sempre col bollino e me la bevo, e però a un certo punto accuso il mal di pancia. Scusi, appoggiando la bocca sulla bottiglia? Sulla lattina. È peggio ancora, la lattina c'è tutto, dovrebbe metterci una cannuccia almeno, non lo so. Beh, adesso io quello non l'ho fatto, mi sono bevuto la mia lattina come bevevo tutte le altre di importazione dalla Germania. Sì. Purtroppo, ahimè, mi è venuto il mal di pancia e ho mangiato lo spicchio d'aglio per debellarla il più in fretta possibile. Morale, che poi l'indomani mi bevo ancora l'altra lattina che avevo comprato e mi viene ancora mal di pancia, al che mi viene il dubbio, dico, ma caspita, non sarà mica vero che questa lattina... Guardo la lattina, tolgo il bollino e vedo che non era stata fatta in Germania, ma era una di quelle di importazione fatta con la licenza che veniva data all'Indonesia. Quindi, diciamo, è lattina contaminata dell'acqua, ed era per quello che io avevo preso mal di pancia. Buona norma, secondo me, quando si beve non toccare la lattina, perché comunque sia sporca, anche se fatta in qualunque posto del mondo. Beh, io quello mi crede che adesso che me lo fa venire in mente, la pulivo bene col fazzoletto, cioè, la bambina. Perché quando la linguetta lattina va dentro, la linguetta è zozza. E quindi, La pulivo. Forse stavo ci vuole molto attento. Beh, oggi in Italia non lo faccio, ma quando ero in Indonesia stavo attento. Vabbè, diciamo che lei ci dà dei consigli. A parte, diciamo, l'aglio e la cipolla immersa nel sale, anche la pulizia della lattina mi sembra importante. Beh, molti hanno paura. Io dico solo agli ascoltatori che se un domani questa cosa dovesse incombere in modo maggiore, il mio amico diceva, sarà stata la cipolla o sarà stata la fede che ho che mi salvava, che mi ha salvato, ma io sono allora, rimasto allora, vivo. Aglio, però, aglio, cipolla e anche, cipolla. Anche il rosario, come c'ha Salvini al polso, così almeno siamo sicuri da tutte, che ogni influenza negativa ci, beh, ci guardi, possiamo salvare. Sta parlando con un cattolico. Sì, io sì, mica lo prendo in giro. Amico, sono entrato in chiesa a 30 anni e mi creda che è cresciuta la mia intelligenza rispetto a quella. Sì, ho capito, ma ho capito. Ma non è che voglio mettere in dubbio gli atti di fede, l'atto di fede c'ha quello di meraviglioso che è indubitabile. Se non c'ha la fede lo salvaguarda comunque per atto di fede. Il però, morale che io a 30 sì, Andrea, anni però, se ho capito, Andrea, devo parlare anche con qualcun altro. Buona giornata. Anzi, abbiamo finito il tempo. Abbiamo tutto il tempo che voleva avuto. Ci fermiamo un secondo tra poco. Melog. Tutti i giornali stanno cominciando a convergere su una storia molto precisa. La storia dei serpenti, la storia dei pipistrelli, sembra non reggere. A quanto pare, dietro ci sarebbe un laboratorio. Il Washington Times è il primo a riportare la notizia. Wuhan ha due laboratori connessi con il programma cinese di guerra batteriologica. Ora, quando si legge guerra batteriologica, si va facilmente nel panico. E credetemi, anche io sono un po' inquieto, diciamo. Ma questi laboratori non sono costruiti per creare un patogeno d'attacco. Infatti non questo è il canale YouTube Jovez che analizza la storia dei laboratori segreti sotterranei, che ha il suo fascino. Dico che i consigli dati dal nostro ultimo ascoltatore hanno gettato il panico nel nostro canale Melog ha parlato. Tutti si domandano se le cipolle col sale siano veramente efficaci o sa meglio l'aglio. Qualcuno dice lo zenzero con la passata di limone. Ecco, mi interessa anche sapere se può sembrare una maniera empirica, un po' superstiziosa di salvaguardarsi dal virus. Qualcun altro ha qualche idea, qualche rimedio della nonna contro il virus? Non prendiamo assolutamente un atteggiamento scettico irrisorio, come il Signore che ha detto lui ha la fede e quindi la fede lo può salvare, ma vogliamo capire qual è una media del sentire nazionale. Sentiamo Michele, buongiorno Michele. Pronto, buongiorno, incredibile, saluto, come va? Beh, tiriamo avanti, ancora siamo vivi. Io non guardi, io come dicevo la sua centralinista, mia moglie è cinese, quindi io o che divorzio, ma ormai è contaminato, però che vuol farci? Sto già scrivendo il testamento. Sì, ma lei, ecco, vediamo un po', è cambiato l'atteggiamento del mondo nei suoi confronti? Lei è quello con la moglie cinese. Sì, le danno la mano con lo stesso calore, l'abbracciano? No, io non ho problemi, sono andando al lavoro, faccio l'orario pomeridiano, i miei. Ancora nessuno ha ironizzato, no, scherzato? No, incredibile, infatti me l'aspettavo un qualcosa del genere. Forse ma nessuno mi ha detto nulla. Le parlano alle spalle, magari puliscono la sedia con la mucchina dove si siede, non lo sa. Ma quello lo fanno, perché in realtà lo fanno comunque, anche prima lo facevano, perché sono i miei colleghi che puliscono tutto il computer. Beh, fanno bene. Però non... No, nessuno, infatti io mi aspettavo che adesso mi diranno qualcosa. Nessuna battuta. E sua moglie ha avuto segnali di essere vista? Vediamo, così mi piace sapere anche il punto di vista. Mia moglie, in realtà, sono quasi 9 anni e mezzo che non torna a casa, quindi poveretta. Sì, ma quando va per strada, che la vedono, la gente cambia marciapiede, ha paura? No, non meglio. Ma questo mi conforta. Proprio l'altro giorno è andata a fare un giro a Padova, che doveva incontrare una sua conoscente, mi ha detto... No, niente, cioè, come neanche. Infatti, a Padova non è stato segnalato atteggiamento sospettoso nei confronti di una signora infatti, cinese. Anch'io l'ho sentito anche a Venezia, però no, lei ha detto che... Diciamo ancora il Veneto è esente da questo atteggiamento sospettoso. Io so a Ferrara, lei anche, ma non ci sono... Nessuno ha detto prima gli italiani, dopo i cinesi, questo, meglio così. Esatto. Questo vuol dire che c'è un livello di coscienza civile superiore a quello che viene registrato. Secondo me è troppo esagerata tutta questa storia, io comunque sono a livello 1 meno, se proprio... Vabbè, lei è tranquillo, lei ha detto, poi anche con la moglie cinese, diciamo, figuriamoci, io in teoria ho l'esorcismo a ogni paura, a ogni pregiudizio dentro casa ogni giorno, va bene, grazie. Domenico. Buongiorno Nicoletti. Che livello è lei? Sotto zero, non so. Meno dell'1. Fatalista. Meno dell'1. Sì. Dunque, io lavoro in aeroporto Malpensa. E quindi è super contaminante come luogo, diciamo nella paranoia generale. Sì, infatti. Ecco, lei ha visto cambiamenti di comportamento in aeroporto da quando comincia a essere martellante la notizia? Beh, diciamo che i colleghi che vanno in pista un po' ci pensano, usano la mascherina, i guanti. Questi chi, diciamo, i piloti o gli operatori, diciamo, a terra? Gli operatori. Cioè, quando viene un aereo da un paese che pensano che possa essere vicino all'area contaminata, mettono mascherina e guanti supplementari? Sì, esatto. Esatto. Ma questo è un protocollo che è stato, diciamo, diffuso e imposto, o lo fanno come iniziativa personale? Ma diciamo che è un protocollo che così, come palliativo, secondo me. Sì, ma qualcuno ha detto mettetevi la mascherina quando arriva un aereo, state attenti? State attenti, vabbè, sicuramente le normali. Ma c'è stata una circolare, c'è qualcosa di ulteriore rispetto alla prassi, ecco, alla normale prassi quotidiana? Ma di ulteriore no. Beh, si stanno ribadendo le normali norme igieniche. Diciamo, c'è un passaparola, dice state un pochino più attenti, esatto, lavatevi le mani, fatevi il bidet, tutte queste cose. Va bene, esatto. Mi sembra chiaro. Benissimo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, il suo livello, innanzitutto. 2. Allo stato attuale delle conoscenze direi 2. Quindi un timore razionale, un'osservazione delle fonti, si legge, cerca di essere informato. Sì, magari così l'idea, l'istinto è quello di avere un minimo di precauzione in più sui prodotti che arrivano adesso dalla Cina, non certo quelli che sono stati importati da tempo, visto che non hanno escluso la possibilità che questo virus possa anche attestarsi sulle cose. Diciamo, lei si mantiene in un'area moderata rispetto al problema. Moderata. Benissimo. Allora sentiamo Michele da Cuneo. Buongiorno. Buongiorno, che livello? Buongiorno, livello tra l'1 e il 2, più 2 che 1. Lei mi ribadisce quello che, diciamo, è un indicatore che ormai mi sembra abbastanza consolidato in questa ora scarsa di trasmissione radiofonica, che gli italiani mediamente hanno un po' alzato le antenne nella media di più rispetto a quello che accade, ma non hanno fondamentalmente cambiato molto i loro comportamenti. Lei me lo conferma? Ma io penso, sì, grosso modo sì, io penso che se si adottano le normali precauzioni igieniche nei confronti mali di tutti i giorni, io penso che uno potrebbe essere abbastanza esente da un eventuale contagio normale. Non sono un dottore io, però penso questo. Questa infezione, questa malattia, arriva da un paese. Vabbè, comunque Michele, siamo alla fine, sentiamo l'ultima telefonata, non facciamo un discorso sul cosa. Il comportamento suo è un comportamento di persona per nulla allarmato. Massimiliano, chiudiamo con lei. Massimiliano. Sì, buongiorno a tutti. A che livello di attenzione è? Beh, a 0, dicevo questo. In questo momento sto viaggiando per andare all'aeroporto e sono con 3 cinesi in auto. E che stanno dicendo i cinesi? Beh, ovviamente loro sono spaventati per quello che c'è. Le hanno detto che sono spaventati, sì. Assolutamente sì, perché... Ma sanno che sto parlando con lei alla radio? Sentono la radio? Sì, ho con me qua il mio interprete, i miei soci, per cui lo sanno. C'è un attimo di esagerazione... Cosa sono? Uomini d'affari che tornano in Cina? Sì. Quindi non sono spaventati? Singapore. Ah, Singapore. Sono spaventati perché ovviamente hanno anche famiglia in Cina e mi raccontavano che il governo sta veramente facendo delle misure straordinarie. Beh, c'è che devono dire, mica possono parlare male del governo. Confinate dentro i condomini, quindi da parte del governo cinese penso che ci sia una risposta. E beh, abbiamo aperto la trasmissione, la gente che è chiusa dentro casa e canta alla finestra di notte non sapendo che altro fare per comunicare, si parlano a distanza cantando alla finestra. Massimiliano, con 3 cinesi in auto verso l'aeroporto, ci rassicura che almeno dal suo punto di vista non ha paura di quello che potrà accadere. Questo è il risultato, mi sembra, migliore del nostro sondaggio di oggi. Alla prossima.